Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, una puntata speciale in questo venerdì 22 aprile. Parliamo di pensione complementare. Per giovani e giovanissimi non è facile pensare alla pensione, spesso si sente dire tanto una pensione non l'avrò mai. Questi soggetti non beneficeranno dei trattamenti ben più ricchi riconosciuti ai loro nonni, padri, madri o zie, quindi devono muoversi per costruire una seconda pensione. È una situazione sicuramente per molti versi preoccupante, quella attuale per le giovani generazioni, cui si aggiunge spesso la carenza di cultura, di consapevolezza, intese come conoscenza reale del fenomeno previdenziale e delle sue dinamiche. Spesso la prospettiva di una forte contrazione delle rendite pensionistiche di futura liquidazione non è affatto percepita o lo è assai scarsamente. Spesso si perde di vista o non si costruisce una prospettiva di lungo o di lunghissimo periodo. C'è un sondaggio recente che è stato condotto dall'Associazione Comunità e Impresa sul tema il rapporto fra i giovani italiani e la previdenza. Che cosa emerge da questo sondaggio? Che per il 75% dei giovani la pensione è solo un miraggio. Per il 60% dei giovani interpellati non c'è conoscenza su che cosa sia il riscatto della laurea, il 40% dei giovani vede per sé un futuro economico mediocre e per nulla roseo, il 75% di chi ha una laurea breve ritiene che in futuro l'INPS non avrà più soldi per pagare le pensioni, ancora altre cifre, altre percentuali, il 57% dei ragazzi indica la propria famiglia come canale privilegiato per informarsi sulla pensione, il 37% il web, quindi internet, il 31% la lettura dei giornali. Infine, il 54% dei giovani che sono stati ascoltati per elaborare questo sondaggio, dei giovani italiani, si sente complessivamente disinformato sui propri obblighi e diritti in tema di previdenza. Forse anche per tutti questi motivi, ad un giovane giornalista è venuto in mente di scrivere un provocatorio, ma mica tanto, manuale di sopravvivenza per evitare una pensione da fame. Oltre l'INPS, come sarà la pensione pubblica e come farsene una integrativa. Tutto quello che i lavoratori dipendenti e non devono sapere e fare prima che sia troppo tardi. Io saluto e ringrazio per essere con noi quest'oggi l'autore di questo manuale, Andrea Telara, che saluto. Andrea, ciao, benvenuto. Buongiorno. Posso definirti giornalista freelance, collaboratore di molte testate economico-finanziarie, fra cui Panorama Economy, lo ricordo, e il giornale delle partite IVA. È proprio l'editore di questo giornale che ti ha chiesto di metterti a fare questo lavoro, che credo non sia stato molto semplice. Ma diciamo, il lavoro è complesso, perché quando si parla di previdenza bisogna prendere in esame un ampio spettro di casistiche. Diciamo che l'intento di questo libro, la cui idea è maturata proprio dall'editore Francesco Bogliari, che è anche titolare della Mind Edizioni, è quello di fornire una bussola a diverse categorie di lavoratori per spiegare loro quello che succederà nei prossimi anni. E quello che succederà è un fenomeno di cui si parla da tempo, che è la conseguenza principale della riforma Dini del 1995. Una riforma che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni, che si chiama in gergo tecnico, diciamo, contributivo, in base al quale le pensioni maturate saranno calcolate a seconda dei contributi versati, della quantità di contributi. Ora, questo cosa mentre vuol prima dire? Ricordiamo, praticamente c'era integralmente il sistema retributivo, quindi veniva calcolato in base all'ultima retribuzione, sostanzialmente, sì, in maniera molto semplice e banale. Ecco, questo conti alla mano cosa vuol dire? Vuol dire che molte categorie professionali rischiano di avere una pensione sensibilmente più bassa rispetto agli ultimi redditi dichiarati e di avere una perdita del tenore di vita nel corso della vecchiaia. Naturalmente le casistiche sono molte, non è una regola che vale per tutti, però le categorie più a rischio sono quelle che o hanno attraversato durante la carriera lunghi periodi di disoccupazione, perché il sistema contributivo funziona con un principio molto semplice e anche molto logico, che chi più versa di contributi più guadagnerà nel corso dopo essersi messo a riposo. E i lavoratori a rischio sono quelli che affrontano lunghi periodi di disoccupazione, i lavoratori precari e i lavoratori autonomi, che spesso hanno delle aliquote di contributive più basse rispetto ai dipendenti e che rischiano di avere una pesante perdita del tenore di vita durante la vecchiaia. Quindi questo è il quadro che colpisce in particolar modo i giovani, perché la riforma Dini entrerà in vigore in maniera graduale. Ha diviso, diciamo, la platea dei contribuenti in due: chi nel 95 aveva più di 18 anni di contributi alle spalle si è salvato sì, esatto, da questo nuovo sistema, e invece i giovani che iniziano a lavorare oggi avranno integralmente la pensione calcolata con il sistema contributivo, che ha gli effetti che abbiamo appena spiegato. E questo rende naturalmente sempre particolarmente importante, sempre più importante, il tema della previdenza complementare, il tema della costruzione di una pensione di scorta. La prefazione del libro di cui parleremo quest'oggi per tutta la nostra puntata è stata curata da Sergio Corbello, presidente di Asso Previdenza, che saluto perché anche lui oggi è qui con noi. Presidente, buongiorno. Direi bentornato a Salvadanaio. Quante trasmissioni abbiamo fatto con lei sul tema della previdenza complementare? Sempre troppo poche, a giudicare dalla carenza culturale che c'è nel paese su questa materia. Per quindi ben motivo? Venga l'ennesima. Per quale motivo, presidente, ancora? Ma direi che dalle chiare parole di Pelara, che veramente si è impegnato su questo tema con grande attenzione e grande direi approfondimento, c'è già tutto, nel senso che i giovani hanno difficoltà a capire il loro futuro perché hanno difficoltà a entrare nel meccanismo della previdenza. La previdenza è un meccanismo abbastanza complesso e spesso e volentieri ci si adagia sugli esempi che si vedono. E come ricordava Telara prima, noi abbiamo avuto un'entrata in vigore della riforma Dini-Treu piuttosto lenta, che per ragioni di sostenibilità sociale si è ritenuto di avere un atterraggio morbido. Quindi i signori che oggi vanno ancora in pensione vanno in pensione con il metodo retributivo, che per carità non è il massimo della vita, ci sono tante casistiche diverse, ma sicuramente dà un tasso di sostituzione, per usare un termine tecnico, cioè una quantità di pensione rispetto al reddito di lavoro, certo, piuttosto elevato. Non saranno i mitici 80% con 40 anni di anzianità, però è una misura abbastanza consistente. Quindi dal punto di vista di quello che è il più facile apprendimento, vedere che succede a un pensionato, il giovane non ha un esempio di difficoltà del pensionato. E quindi dovrebbe elaborare una propria cultura previdenziale tenendo conto di quelle che sono le realtà del suo sistema, perché la riforma Dini, che poi è la riforma base del nostro sistema, qui sono state altre forme di manutenzione, ma quella è stato il cambiamento grosso, ha perseguito un obiettivo fondamentale, la sostenibilità del sistema. Allora, quando si sente dire noi non avremo la pensione, i giovani, sì, l'INPS sì, non ce la farà. È il suo punto di partenza della prefazione. Questo il luogo comune. È un luogo comune, è un errore, nel senso che il sistema è stato messo in sicurezza, la sostenibilità c'è, ma la sostenibilità ha un prezzo. E il prezzo è dover ridurre la quantità dei trattamenti per poter fare in modo che il sistema non imploda. La riduzione dei trattamenti si può ottenere in molti modi. La scelta tecnica che c'è stata è quella del metodo contributivo che lei prima ha richiamato. È una scelta che ha pregi e difetti. In questi ultimi anni è nato anche un discorso critico sulla scelta contributiva, anche perché noi avendo già nella previdenza complementare, ne parleremo dopo, certo, immagino, una forma di contribuzione definita, poi spiegheremo di che si tratta, tutto sommato abbiamo la stessa metodologia e per il primo e per il secondo pilastro e pare francamente eccessivo. Quando poi noi pensiamo che la rivalutazione del salvadanaio individuale della contribuzione peraltro virtuale perché l'INPS e i sistemi di base si muovono a ripartizione, quindi il denaro che affluisce in forma di contributo viene utilizzato per pagare le pensioni di oggi. Di tutti, no? Quanti, certo. E questo è il patto generazionale. Ebbene, il salvadanaio virtuale quindi viene rivalutato con il PIL e la rivalutazione del PIL diventa un dato problematico. Negli ultimi anni sicuramente il sistema è più sostenibile, ci mettiamo dalla parte del sistema, non degli utenti, perché il PIL ha consentito delle rivalutazioni sostanzialmente nulle, non c'è stata crescita. E quindi se diventa più sostenibile il sistema diventeranno più povere le pensioni. Tant'è vero che, e poi riconsegno il microfono che forse mi sono impossessato per troppo lungo. Proprio su, guardi, me lo riconsegni subito perché bene, ho tirato fuori dal libro alcune parti e la prima che abbiamo estratto si lega proprio esattamente a quello che lei ci stava raccontando adesso. A A causa dei tagli subiti dalle pensioni pubbliche, per non rischiare un pesante impoverimento in vista della terza età, molti nostri connazionali avranno bisogno di dotarsi di una diversa fonte di reddito, da affiancare agli assegni mensili dell'INPS e alle pensioni complementari. In altre parole, è necessario attuare un piano di risparmio personalizzato, in modo da accumulare ricchezza in un periodo di tempo molto lungo, che si protrarrà per almeno 20 o 30 anni. Fino agli inizi degli anni 90, per i nostri connazionali era abbastanza facile costruirsi una rendita di scorta. Prima dell'ingresso dell'Italia nell'Unione Monetaria Europea, i tassi di interesse ufficiali erano infatti intorno al 9%. E così, per le famiglie italiane, ottenere una fonte di reddito supplementare era quasi un gioco da ragazzi. Bastava investire l'intero capitale in strumenti finanziari sicuri, cioè nei titoli del debito pubblico come i BOT, i CCT o i BTP, i cui rendimenti erano pari ad almeno il 10% annuo, in linea con il costo del denaro ufficiale. A un certo punto, però, l'incantesimo si è rotto. I tassi di interesse così elevati stavano infatti per diventare pericolosamente insostenibili per il bilancio dello Stato italiano. E così, dal 1996 in poi, le cose sono cambiate radicalmente. Oggi, a differenza di 20 anni fa, non è facile per le famiglie costruirsi una rendita finanziaria consistente investendo nei titoli di Stato, che offrono un interesse lordo ridotto al lumicino, cioè tra lo 0,8 e il 5% circa ogni 12 mesi, a seconda delle scadenze. Abbiamo tratto questa parte dal libro Manuale di sopravvivenza per evitare una pensione da fame. Questa mattina a Salvadanaio ne parliamo con l'autore Andrea Telare, con il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello, con il quale prima della scheda abbiamo fatto un po' una ricostruzione storica, anche se ovviamente molto sintetica, delle motivazioni per cui oggi parliamo sempre di più di previdenza complementare, della necessità di costruirsi una pensione di scorta. Presidente Corbello, dobbiamo andare già verso la prima pausa, ma per tornare a quello che lei ci stava dicendo prima, in sostanza, per le giovani generazioni oggi si fa molto a fatica a capire le motivazioni per cui la pensione di scorta è necessaria, perché ovviamente hanno un esempio di nonni e zii che vivono una condizione, per fortuna loro, molto diversa, e quindi in sostanza questa consapevolezza è molto difficile ad essere assunta. Questo è il problema dello scarso sviluppo della previdenza complementare e della circostanza che poi, se si va a analizzare la composizione degli iscritti, i giovani sono, direi, la parte latitante, cioè quelli che ne hanno veramente bisogno sono la parte latitante. Purtroppo è un problema di carattere generale, i sistemi, lo ricordavo prima, si sono occupati, i sistemi di base, della sostenibilità. A questo punto bisogna sempre più occuparsi dell'adeguatezza, e quindi l'adeguatezza sarà con degli interventi che immagino a medio termine dovranno essere fatti comunque anche nei sistemi di base, che stanno smagrendo forse troppo. Non è un caso che anche l'Europa, dopo anni di richiami alla sostenibilità dei sistemi, inizia ad accompagnare la sostenibilità al termine adeguatezza, che è poi il termine che usa anche la nostra Costituzione per i trattamenti pensionistici, la misura dei trattamenti pensionistici. E poi occorre sviluppare veramente la previdenza complementare, che è un lavoro molto duro da fare adesso, visto che peraltro, come dire, anche le giovani generazioni, anche quelle che vorrebbero teoricamente cominciare a mettere da parte il loro salvadanaio per il futuro, non hanno proprio materialmente le condizioni per poterlo fare. Ma di questo parleremo nella seconda parte, andiamo in pausa. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, venerdì 22 aprile, oggi puntata speciale dedicata alla previdenza. Oggi parliamo di questo manuale di sopravvivenza per evitare una pensione da fame, scritto da Andrea Telara, un collega, un giornalista freelance e collaboratore di molte testate economico-finanziarie, che si è avventurato in questo terreno molto delicato. Andrea, quello di fare anche un po' il divulgatore della tematica previdenziale, una tematica tutt'altro che facile, perché peraltro soprattutto le giovani generazioni, e non è detto che sia colpa loro, tendono a rinviare questo problema. Qual è la sensibilità che hai raccolto? Ti sei messo solamente a fare l'elaboratore di concetti, oppure hai anche un po' drizzato le antenne e hai cercato di capire qual è la percezione intorno a te dei ragazzi della tua età? Perché lui, insomma, dice non è più giovanissimo, siamo ancora giovani. Poi c'è la distinzione fra giovani e giovanissimi che fa anche il presidente Corbello, e già, ne parleremo già, anche dopo. C'è un'ulteriore distinzione. Ma guarda, io devo dire, anche per quando mi sono occupato parlato di queste tematiche per il giornale delle partite IVA che si rivolge ai lavoratori autonomi, che sono anche l'anello forse più debole, soprattutto i giovani lavoratori autonomi della catena previdenziale, chiamiamola così, si ha l'impressione che molti sappiano che il sistema pensionistico italiano nei prossimi decenni subirà una radicale trasformazione con i tagli delle rendite di cui abbiamo parlato prima. Però molti vedono un po' la prospettiva previdenziale come una prospettiva lontana, sanno che le loro pensioni saranno molto più basse dei loro genitori, di quelle dei loro genitori a parità di contributi versati, però non si ha molta la percezione di cosa fare per correre ai ripari. Infatti questo libro propone, oltre a spiegare che cos'è la previdenza integrativa in Italia, sostiene anche una tesi in base alla quale ci dovrebbe essere anche un piano di risparmio personalizzato che accompagna il risparmio previdenziale. E anche nella prefazione Sergio Corbello dice bisogna essere formichine, cioè renderci conto che oggi c'è necessità di risparmiare sempre di più senza voler fare, diciamo, del moralismo. Però noi abbiamo visto una crisi finanziaria negli ultimi 3 anni che è nata in gran parte dalla mancanza di risparmio e dall'esplosione del debito, per sintetizzarla un po' semplicisticamente. Probabilmente la cultura del risparmio di lungo periodo nel nostro paese o non c'è mai stato o forse si è persa, anche perché, come diceva l'estratto del libro che avete raccontato prima, probabilmente gli italiani per molti decenni sono stati abituati a investire in maniera sicura con una modalità abbastanza facile. Oggi viviamo in un mondo sempre più complesso, in uno scenario dei mercati finanziari sempre più complesso. Vediamo che anche i titoli di Stato europei, sono cronache di questi mesi, di questi giorni, non sono più il porto sicuro di prima, e credo che bisogna, quando si parla di risparmi e di propri soldi, essere consapevoli maggiormente, accrescere la cultura finanziaria degli italiani, che, se non sbaglio, è abbastanza bassa secondo le statistiche infatti, più diffuse. Devo dire che anche lo abbiamo sperimentato nelle nostre trasmissioni, le campagne informative fatte su questi argomenti sono state estremamente lacunose negli ultimi anni e ovviamente molte persone lamentano proprio questo, anche di non avere un grado di consulenza dalle persone alle quali si rivolgono soddisfacente. Molti ci dicono, quando affrontiamo questo argomento, io non sono in grado di farmi dire da nessuno, facendo un determinato piano di versamento, quale sarà l'assegno pensionistico che riuscirò a maturare. È chiaro che è una previsione molto difficile da fare, perché non c'è certezza della legge, perché il tessuto sociale cambia anagraficamente continuamente, l'età media continua ad allungarsi, e però la gente vuole delle certezze. Allora, per esempio, una delle certezze è che l'INPS invierà presto a tutti i lavoratori la cosiddetta busta arancione, un'altra pillola tratta dal libro di Andrea Telara. Il momento della verità sembrava in arrivo nel 2010. Era questo l'anno fissato inizialmente per il debutto di un nuovo prospetto creato dal Ministero del Welfare, che avrebbe dovuto permettere a ciascun contribuente di calcolare in anticipo l'ammontare del proprio assegno pensionistico futuro. Si chiama Busta Arancione e prende spunto da un documento simile, consegnato ogni anno ai lavoratori svedesi e recapitato per posta in un caratteristico involucro di colore arancio. In realtà la versione all'italiana di questo importantissimo documento si è rivelata essere ben diversa rispetto alla busta inviata ai contribuenti scandinavi. La versione Made in Italy è infatti un prospetto consultabile per lo più attraverso internet. Milioni di lavoratori hanno già ricevuto per posta un nome utente e una password che permette loro di collegarsi al sito web dell'INPS o degli altri enti previdenziali di categoria. Una volta effettuato l'accesso, ognuno può innanzitutto consultare in qualsiasi momento il proprio estratto conto pensionistico, con il riepilogo di tutti i versamenti previdenziali effettuati nel corso della carriera. Il futuro pensionato può così prontamente segnalare all'INPS e agli altri enti pensionistici qualsiasi errore o omissione nella sua situazione contributiva. A dire il vero, il compito assegnato alla busta arancione era in origine molto più ampio. Ricalcando il modello svedese, si era infatti pensato di fornire, attraverso questo prospetto, anche varie stime sull'ammontare della pensione pubblica che il contribuente avrebbe ricevuto durante la vecchiaia. Così ognuno avrebbe potuto capire facilmente il gap previdenziale che lo attende, cioè la differenza tra l'ultima retribuzione percepita e l'assegno pensionistico maturato. In altre parole, grazie alle simulazioni, ogni lavoratore sarebbe in grado di comprendere bene se gli si prospetta una consistente perdita del tenore di vita durante la terza età e se ha già bisogno di costruirsi una rendita di scorta, in modo da affrontare meglio gli acciacchi della vecchiaia. Purtroppo però, per milioni di lavoratori, queste simulazioni rimangono ancora soltanto un miraggio. Presidente Corbello, non è un problema di poco conto questo? È un problema enorme questo. Devo dire che in effetti la busta gialla dei Noartri, possiamo chiamarla così, è un po' deludente. È un estratto conto contributivo, quindi ben altro è la funzione che dovrebbe avere, che è quella in effetti di proiettare un trattamento al futuro con tutte le difficoltà che questo comporta, evidentemente con un fatto che è predittivo, per cui è aleatorio. Però sarebbe importante perché ci si renderebbe veramente conto di quello che vi è stato chiamato prima il gap previdenziale, che è quel delta, quella differenza fra un reddito di lavoro e quanto percepirò da pensionato. È quella la vera motivazione che induce a fare previdenza complementare. Addirittura, e qui non contraddico certe affermazioni che in tante circostanze ho fatto, addirittura meglio del beneficio fiscale. Un legislatore cinico potrebbe non dare un beneficio fiscale, cinico e anche un po' sciocco forse, ma è un paradosso, alla previdenza complementare, ma dovrebbe informare al massimo i cittadini di quello che sarà il futuro previdenziale, perché la percezione della paura che uno riceve immaginando che io oggi ho 100 di reddito, vado in pensione e il giorno dopo ne ho 40, facciamoci due calcoli e questo dà una forte motivazione alla previdenza complementare. Senza questo è molto difficile. Per cui lo sforzo che si deve fare è di pubblicare molti libri come quello di Telara, di introdurre la materia della previdenza complementare generale, della previdenza in generale, della materia finanziaria nelle scuole. Certo. Perché quando ai tempi miei si parlava di educazione civica, si facevano delle cose molto carine, molto interessanti, che era un po' di diritto costituzionale annacquato, un po' di storia del paese. Ecco, ora credo che il nuovo cittadino debba essere messo in grado di comprendere, avere un ABC, un'alfabetizzazione, certo, su queste materie. Invece l'industria finanziaria di che tipo di responsabilità dovrebbe caricarsi? Perché è naturale che dietro ogni tipo di iniziativa di divulgazione che arriva dall'industria, presidente, vengano viste iniziative di marketing ed iniziative commerciali, tesi per esempio a portare, non lo so, i lavoratori iscritti già a fondi pensione di categoria verso forme private, perché questo è anche un po' quello che è successo negli ultimi tempi. Sì, io non sono scandalizzato da cose di questo genere, credo che l'interesse del paese sia avere una diffusa previdenza complementare. Io non tifo per nessuna squadra, in buona sostanza. L'importante è che ci sia la previdenza complementare. Tant'è vero che addirittura non mi scandalizzerei se vi fosse un obbligo di copertura di previdenza complementare, così come avviene per la RC Auto. Il paragone è infausto, mi rendo conto. Però direi copriti con chi vuoi, ma copriti. E questo sarebbe un notevole passo avanti, ma senza arrivare alla obbligatorietà. Il mercato finanziario sicuramente cerca dei clienti, ma se riesce a far comprendere alla gente un bisogno, fa comunque un'attività assolutamente meritoria. Il momento della meritevolezza potrebbe venire meno allorquando alcune simulazioni che vengono presentate ai clienti sono sballate dal punto di vista tecnico. Quindi in questo senso gli organismi di vigilanza dei diversi operatori finanziari e assicurativi dovrebbero attentamente valutare che tipo di proiezioni vengono fatte ai propri clienti potenziali, sia per quanto riguarda la pensione di base, sia nei risultati della previdenza complementare. Andrea Telara, spulciando nel sommario del tuo libro, vedo anche tra le ultime pagine qualche paragrafo dedicato all'investimento nell'oro, tema di grandissima attualità, l'investimento nelle opere d'arte, investimento nei diamanti. Come mai ti sei sbizzarrito anche ad analizzare queste, mi veniva una brutta parola, derive finanziarie, però insomma legate alla pensione faccio un po' fatica a vedere un'associazione. Sì, diciamo può sembrare un accostamento bizzarro, anche perché nella prima parte del libro si parla di risparmio previdenziale con piccole cifre tutti i mesi, quindi parlare di diamanti e oro può sembrare veramente strano. Il problema è che nell'ultimo capitolo, nella parte finale, si sostiene una tesi, senza voler salire in cattedra, ripeto, però si cerca di far capire che oggi il mondo mondo è molto più complesso, per cui investire soltanto in alcune attività finanziarie, quelle più tradizionali, compresi i titoli di Stato, non è una scelta lungimirante. Noi abbiamo un mondo che sta cambiando e dei mercati finanziari che stanno esplodendo di ricchezza, sono quelli dei paesi emergenti, e soprattutto abbiamo la scarsità di alcuni beni, in particolar modo le materie prime, che nei prossimi decenni diventeranno sempre più scarse e sempre più costose. Ora, questo tipo di beni sono i beni che hanno maggiori possibilità di apprezzarsi, e soprattutto bisogna capire che la ricchezza di un risparmiatore è tanto più equilibrata quanto il risparmiatore sa scegliere con consapevolezza un numero maggiore di strumenti finanziari o di beni reali su cui investire, sempre purché sappia bene quello che maneggia, quello che sta facendo. Ecco, ultimi 30 secondi di tempo, presidente Corbello, non per questo adesso ci dobbiamo mettere il barile di petrolio in soffitta. No, e forse neppure i diamanti sotto il materasso, ecco. Nel senso che forse dovremmo chiedere ai nostri fondi pensione di investire con una maggiore capacità. Questo deve essere fatto, infatti attendiamo da tempo anche una riforma normativa per quanto riguarda la tematica dell'investimento dei fondi pensione. Ci fermiamo per la nostra seconda pausa, ritorniamo tra pochissimo con il nostro manuale previdenziale, tra poco. Ultima parte di Salva Danaio. Salva Danaio oggi insieme a voi legge il manuale di sopravvivenza per evitare una pensione da fame. Oltre l'INPS, come sarà la pensione pubblica e come farsene una integrativa? Lo ha consegnato alle librerie da poche settimane Andrea Telara, collega giornalista, che appunto ha avuto questa idea, su suggerimento ovviamente di un editore, di elaborare un po' tutto ciò che attiene appunto la situazione previdenziale attuale di tutte le persone, naturalmente. Poi così si guarda anche ovviamente avanti, si cerca di sensibilizzare soprattutto questo libro le giovani generazioni sul tema della previdenza. Peraltro, Andrea Telara, ammettendo nel migliore dei mondi possibile di aver sensibilizzato davvero nel corso della prima parte della nostra trasmissione i giovani che stanno avviando il loro percorso professionale proprio in questo momento sul tema della previdenza complementare, da oggi dicono: da domani mi metto alla ricerca del mio strumento di previdenza complementare, quello che fa per me, tra fondi pensione, forme private appunto di pensione di scorta. C'è proprio un capitolo dedicato, un paragrafo dedicato alle mosse giuste per non sbagliare. Allora, innanzitutto l'obiettivo del libro non è quello di dire fate in questo modo piuttosto che in un altro, di dare suggerimenti dicendo con, diciamo, la supponenza dell'esperto, è quello di indicare degli strumenti per capire e per conoscere. Quindi quando uno si trova di fronte si trova all'inizio della propria carriera, naturalmente già, anche se ha pochi anni, 26 anni, non ha alcun anno di carriera alle spalle e non ha versato ancora contributi, deve interrogarsi su quale sarà il suo possibile gap pensionistico a 65 anni, quando si ritirerà dal lavoro, facendo delle stime. Di poterci andare a 65 anni, sperando. Dubito oggi che fra 30-35 anni ci si possa andare a 65, comunque detto questo. Facendo delle stime. E poi, una volta individuato questo gap pensionistico, questa differenza tra l'ultima retribuzione percepita, probabile, presunta e stimata, e la pensione pubblica che riceverà dal suo ente, deve capire qual è lo strumento in grado di colmare questo gap. E oggi ci sono degli strumenti che consentono di capire quanto si prenderà presumibilmente con dei fondi pensioni, versando una cifra tra 100 o 400 euro al mese per 30 o 40 anni. Lo si può fare anche su internet. Ogni fondo pensione ha un motore di calcolo nel proprio sito che suppone che il fondo abbia dei rendimenti nel lungo periodo in genere compresi tra il 2 e il 4% a seconda della linea di gestione. Sono stime da prendere con il beneficio d'inventario, non sono assolutamente delle stime che calcolano al centesimo la pensione di domani, però fanno capire anche quale sarà la pensione che maturerà a 65 anni o più tardi, dopo aver versato un tot di denaro nel lungo periodo. E quello che viene fuori da queste stime, che poi vengono anche inviate a casa ogni anno al contribuente in un documento che si chiama Prospetto Esemplificativo Personalizzato, che è stato studiato anche dalla COVIP, dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che impone anche alle società di gestione di inviarlo ai contribuenti, si scopre che il fondo pensione può colmare tra una cifra tra il 10 o 20 o 25% a seconda dell'entità del versamento, e stimando la pensione di scorta che arriverà tra 20 o 30 anni, si può capire se è il caso di aumentare i versamenti o se va bene così come è stato strutturato il piano adottato dal singolo lavoratore. Quindi un giovane deve mettersi lì, fare i calcoli. So che magari fare delle stime sui prossimi 40 anni può sembrare a un ragazzo di 26 anni, a un giovane lavoratore, una cosa come andare sulla luna. Un esercizio intellettuale inutile, certo, esatto. Immaginiamo. Però naturalmente iniziare con una sorta di approssimazione progressiva, perché si va avanti con delle approssimazioni sui calcoli e sulle rendite future, però è meglio avere un'idea vaga della pensione piuttosto che non averne alcuna. Ma avere voglia di farsela questa idea, in sostanza. Esatto. Dal libro abbiamo tratto anche un'altra pillola, che è quella che riguarda proprio la descrizione del mondo dei fondi pensione. Più di 5 milioni di italiani li hanno già sottoscritti, ma per gran parte dei nostri connazionali rimangono ancora oggetti misteriosi, tutti da scoprire. Sono i fondi pensione, cioè gli strumenti finanziari che hanno il compito, tutt'altro che facile, di costruire una rendita integrativa per i lavoratori di tutta la penisola, a cominciare dai più giovani. Il meccanismo con cui funzionano questi prodotti è abbastanza semplice e ricalca quello dei piani di accumulo dei tradizionali fondi comuni di investimento, venduti dalle banche e dalle società di gestione del risparmio. In pratica, ogni contribuente versa nei prodotti pensionistici, in genere ogni mese, una parte del proprio reddito. I soldi accantonati vengono impiegati sui mercati finanziari da professionisti, ad esempio in azioni quotate sulle maggiori borse internazionali per chi sceglie linee di investimento abbastanza rischiose, oppure in obbligazioni e titoli di Stato, per chi preferisce strumenti finanziari un po' più sicuri. Il capitale, più i rendimenti maturati, si accumulano negli anni fino a che il sottoscrittore del fondo non raggiunge l'età pensionabile. Non appena si mette a riposo, il lavoratore ha di fronte a sé due possibilità. Può convertire tutta la ricchezza accumulata in una pensione di scorta per compensare gli assegni sempre più magri dell'INPS, oppure, in alternativa, può riscattare il 50% del capitale maturato e convertire in rendita soltanto la restante metà. Occorre ricordare però una cosa molto importante: il capitale accumulato nei fondi previdenziali non può essere riscattato prima della data del pensionamento, se non per motivi straordinari, ad esempio in caso di perdita del posto di lavoro o per gravi ragioni di salute, che costringono il contribuente ad affrontare eventuali spese mediche impreviste. I soldi rimangono dunque blindati per molti anni, anche se restano sempre di proprietà di chi li ha versati. Nella malaugurata ipotesi che il sottoscrittore del fondo muoia prima della data della pensione, infatti, il capitale accumulato può essere ritirato in tempi brevi dai suoi eredi naturali o da altri beneficiari designati. E allora, queste erano le caratteristiche di fondo del funzionamento di un fondo pensione. Presidente Corbello, Sergio Corbello, presidente di Asso Previdenza, ci dà qualche suggerimento lei per prendere confidenza con il tema della previdenza complementare per chi fino a questo momento ne fosse stato completamente distaccato? E con questa domanda andiamo verso la fine della trasmissione. Beh, della confidenza va a parere soprattutto con il problema. E poi il meccanismo dei fondi pensione è relativamente semplice. È un accumulo di risorse. La prestazione dipenderà da quante risorse si mettono in questo salvadanaio, in questo caso reale e non virtuale, e come viene gestito il tutto. Tra l'altro, si è fatto cenno prima di qualche tipologia di gestione. Questo è abbastanza importante. Io dico sempre che il piano previdenziale deve essere visto con molta attenzione, soprattutto dai giovani. Bisogna essere prudentes, sicut serpentes, simplices, sicut columbe, prendendo un principio un po' antico. Ma attenzione, la semplicità e la prudenza non vuol dire non assumersi dei rischi. Vuol dire calcolare esattamente quella che è la durata del piano previdenziale e quindi, specialmente nei primissimi anni, cercare di raggiungere un risultato maggiore assumendo qualche rischio, rischio che può essere poi compensato comunque nel lungo periodo dove i risultati non siano positivi. Quindi questo fa parte della prudenza. La prudenza non è evitare i rischi, ad esempio, ma valutarli con attenzione. È un esercizio difficile, ma i fondi aiutano. I meccanismi che i fondi di previdenza complementare mettono a disposizione degli iscritti, in effetti sono dei meccanismi virtuosi, sia l'informativa annuale, sia le proiezioni. Manca dall'altra parte, quello che dà la previdenza di base. Però con la previdenza complementare si può capire di più. Un'ultima battuta che vedo che il tempo ultimissima, corre, incombe. Sì, infatti. Attenzione, comunque, non dimentichiamo che le risorse devono essere di qualche peso. Immaginare di fare previdenza complementare, io lo dico sempre, con 10 cifra, euro al mese non è una stupidaggine, occorre almeno un 10-12%. Per un lavoratore subordinato il calcolo è facile, TFR più un po' di contributi propri del datore di lavoro, se no non si va da nessuna parte. Allora, insomma, Andrea, 10 secondi anche a te, naturalmente sei l'autore del libro, te li devo. Dobbiamo mettere questo libro dentro l'uovo di Pasqua di un po' di persone? Ma mi auguro di sì, che lo facciano in tanti, ovviamente essendo l'autore, però io credo che sia importante capire, e uno strumento di questo tipo può aiutare a capire. Grazie, grazie ad Andrea Telara, in bocca al lupo per le vendite del libro naturalmente, al presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello, grazie ad entrambi, noi ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Da Deborah Rosciani, buona Pasqua a tutti.